le cose da loro. Sì, io ho qua degli amici, ogni tanto ci sentiamo, Isacco e Cameli. Siamo andati lì, ci portavano al casino di Malindi, non è che siamo granché, però lì da quei soldi lì, allora c'era ancora la lira, me li cambiavano in nero loro, dai. Si è andato con una guida? No, lì il villaggio ero, aspetta, come si chiama il villaggio? Il Blue Bay Village, vicino a Malindi. Ma io sono stato proprio Malindi città. Avevo la guida sarda, lì da, perché poi lì a Malindi è conosciuto, è famoso, Stefano Floris, che adesso sta facendo il programma con lì Ciaccolò. Sardi ovunque. Quella è stata la mia guida in Africa. No, noi avevamo gente locale, che io le escursioni le facevo non con l'albergo ma con la gente del posto, dai. Quindi escursioni con la barca al fondo di vetro, mi ricordo, oppure all'interno della foresta, minchia. Mi ricordo ancora c'era la fotocamera che non era digitale, però ancora ho delle foto bellissime fatte in mezzo alla giungla lì, caspita. Certe scimmie allucinate con questi colori, da paura, guarda, di riflessi verdi, azzurri, sono foto fatte a rullino, Anche noi abbiamo preso la guida per fare di Malindiccia. Avevamo il Land Rover, mamma mia. Uscivamo la mattina alle 5 del mattino e rientravamo la sera tardi. Poi abbiamo fatto anche safari di notte. Quindi sarei andato in quel promontorio dove sotto, diciamo, si ammevano gli animali, la sera ci rientrano gli animali, come c'erano i leoni lì, non mi ricordo come si chiama, che era pieno di babuini che ti fottevano la roba, c'erano salvi a tetto e ti fregavano la macchina fotografica. Sì, esatto. Ma io di mattina me ne sono sceso perché mi stava scattando da urinare, diciamo. La guida se l'è scesa per prima, guardato, di Furteglie, ok, Stefano di Furteglie, ecco qua. Ha guardato, vai, scendi giù tranquillamente, sono sceso, stavo urinando, e poi mi fa, oggi adesso fa la cosa, quando è finito, torna indietro piano, gli ho detto perché, non ti preoccupare tu, torna indietro piano, senza fare scatti di prosche, ed ero a 5 metri dalla leonessa. Bellissimo, non ce ne siamo mica accorti. Perché sono dello stesso colore del fieno lì, della savana, della steppa proprio. No, io ho fatto delle belle foto sia dai leoni, proprio da un palmo dal naso proprio, però non ci hanno fatto scendere, anche perché mi sembra qualche mese prima qualcuno era stata anche attaccata, una turista che se ne è scesa. Abbiamo usato sia il Land Rover e anche quei, non so se ti ricordi, quelle specie di pulmini che hanno il tettuccio che si solleva, e tu praticamente si rimane in piedi, però col tettuccio sulla testa. Sì, no, io quelli no. La nostra Jeep, noi abbiamo affittato per 25 giorni il sempre il solito. Avevamo la Jeep che la capota si staccava, quindi no, non era un problema. E la nostra rimaneva, si sollevava praticamente, però ti rimaneva sempre in testa questa capota, era tipo a cerniera, là, rimaneva una specie di veranda sopra la testa. E noi eravamo 25 km da Malindi, se non sbaglio, il paese è Watamu, non so se ci sei stato a Watamu, credo che sia più a sud, se sbaglio, o più a nord, boh, non mi ricordo. No, lì non ci sono stato. Io mi sono girato a Malindi, bella, a piedi, da solo, ovvia, le risate, io e mia moglie, ovvia. Mamma mia, le risate, guarda. Mi sembra che c'era quell'elefante con la proboscide, che era finto però, mi te lo ricordi? Sì, lo visto anch'io, sì. Lì, a Casino sarei andato a farti una puntatina, sì. Vabbè, certo, io sono stato anche a Malindi, nel locale di Mario, il sardo, Mario, che si era assunto anche con noi a mangiare la pizza. Sotto aveva la pizzeria grande e sotto aveva il night. Tutto il locale si chiamava Mario Buddhas. Ed era, mi diceva, io in Salina non posso rientrare, per molti vieni qua e là. Ed era ricercato internazionale, ed era lì. Era lì perché non c'era l'espatrio ancora, cioè non l'espatrio, non mi è capitato, se non viene la parola. Dopo qualche mese l'abbiamo visto al telegiornale, l'avevano arrestato, erano riusciti a rimpatriarlo. l'avevo arrestato, avevo lasciato 17 milioni di euro di buco al fisco, una cosa del genere. L'ex padrone del patatata, una cosa del genere. Patatata, non lo so, ma qui in Sardegna? Sì, sì, qua in Sardegna, e lui era emigrato lì a Malindi, capito? Invece io mi ricordo dove andavo io ci andava Briatore e gli Agnelli, qualche figlio di Agnelli andava lì in quel villaggio. Era un bel villaggio, caspita. Era un 5 stelle, ma addirittura in giro c'erano le guardie, perché non entrava e non usciva nessuno dal villaggio, senza essere controllato. Io non potevo regalare neanche una maglietta a un ragazzo, diciamo, di quelli che tagliavano l'erba del prato, per esempio, che la tagliavano a mano con le forbici. Dovevo fare una specie di giustificazione dove scrivevo che stavo regalando la maglietta a tizio, capito? Se no se lo beccano lì alla sbarra gli ne tolgono la pelle. No, noi eravamo in un contesto di tascheria, noi avevamo la tascheria nostra, tutto organizzato da questa guida di furtieri, troppo in gamba, Stefano è troppo in gamba. E poi l'ho trovato su Rai 3 facendo il programma con Licciacolò. Sardi ovunque, adesso lui è in giro per il mondo a cercare i sardi. È troppo forte, lui è la ragazza, è troppo forte, troppo forte. E poi i sardi già ce ne sono stati per il mondo, caspita, dappertutto. La voglia. Siamo fatto la Transiberiana e la Transiberiana tutta in treno. Non so quanti chilometri hanno fatto in treno, viaggiando, sono fuori. Stefano è impazzito. Comunque ci ha fatto una bella cosa a Malindi. In Kenya cioè, era 24 su 24 con noi, stava sempre con noi, ci spiegava le cose, tutto in gamba, e mi sono veramente divertito. Un giorno siamo andati a vedere questa fabbrica di legno, io mi aspettavo una fabbrica, invece erano tutti buttati con la terra, con la sgorbia, tutti gli attrezzi per lavorare a mano, là, facevano gli animali, mamma e papi, elefanti, rinoceronti, cosa facevano? La targhetta, quella ce l'ho ancora, la scritta famiglia, non so, mettiamo il cognome della tua famiglia, l'anno, i lati facevano gli elefanti, tutto fatto a mano. Sì, ci sono stato anch'io lì, io lì mi sono fatto contratto la famiglia dei Masai, ci sono stato anch'io lì, la fabbrica del legno lo chiamo, sono tutti bugiati da quella terra, tutto a mano, guarda, sono troppo forti lì. In terra c'era uno strato di schegge di legno di allucinante, chissà, da roba di anni e anni di lavoro. Qui per con 5 euro ti compravi chissà che cosa. No, cosa dico 5 euro? 5.000 lire, perché c'era la lira ancora quando sono andato io. Sono rientrato a casa che uscivano corna da tutte le parti, dalle valigie, era pieno di animali, mamma e papi li chiamavano i Masai praticamente. Uno si era preso, uno era con lui, anche era quasi a grandezza naturale. Ma come fai a portarti a casa questi qua? Belli, belli, poi lavorano tutto a mano, bellissimo. No, io da Masai mi sono comprato i cosi, il panga, che sono i coltellacci che usano loro, con le sciabole grandi, col fodero di budello, di vitello. Bellissimo. Poi ce l'ho a casa qua. È un macete, dai. Esatto, un macete. Poi per passare in aeroporto, mamma mia, cosa ho dovuto fare. Infatti, è stato che l'abbiamo, va bene. Una volta noi ci hanno fermato addirittura un arghilè smontato, no? Era nella valigia. Oh, dalla metà detector, come gli ha fatto l'altra, la radiografia, sembrava una spada. Invece era le canne che entrano dentro il vetro, l'arghilè. No, quello mi manca. Quello la prossima volta che faccio un viaggio me lo compro. Quello quando intanto voglio riandare a Istanbul. Istanbul mi è piaciuta troppo, me lo prendo a Istanbul. No, io l'ho preso, non so se in Egitto credo, in Egitto forse l'ho preso. No, sono stato a Casablanca, sono stato in Marocco, no, non mi piace, non ci metterò mai più piede, mai più. Io l'ho toccata, in Marocco l'ho toccata con una crociera, quindi ho visto le cose così, lì, la moschea, quella grande, dai. Sì, sei andato con la moschea greca e ci sono andato anch'io. Anch'io ho fatto parecchie crociere. L'ho fatto con la Costa e con la SMC, con la MSC. Se ti interessa, ce n'è una che parte a marzo, che va a Dubai. sempre crociera, è col volo diretto dal Alghero. No, devo già partire. Devo partire a giugno. A giugno, gli ultimi di giugno, si parte il 20 da Cagliari. Per dove? Faccio il Mediterraneo perché stiamo accompagnando a questi due miei amici che non l'hanno mai fatta e la vogliono provare. E allora per iniziare vogliamo fare il Mediterraneo, e noi li accompagniamo, perché noi con mia moglie ne abbiamo fatte tantissime crociere. E io prima ero un po' contrario, adesso qualcuna me l'ho fatta anch'io invece, dai, mi sono un po' ricaduto. Perché diciamo con la valigia sempre in un punto ti giri parecchie località, dai. Adesso vuoi guardare anche la tessera. La tessera perché con i punti, anche ti hanno i punti, diventi blu marine, quelle cose lì. Poi c'è la gold, dopo tanto crociere c'è la tessera gold che hai per agevolazioni allucinanti. Tu guarda quanti punti ho, perché forse sono arrivato a gold. Beh sì, è che se non la fai ogni anno, ogni due anni, poi li perdi, capito? Quindi devi stare sempre con loro. Io a volte invece cambio, ho fatto anche MSC, ho fatto anche quella americana, come si chiama, la nave della compagnia americana. Adesso non mi viene il nome, fammi ricordare. La Royal Caribbean. Quella lì, anche se insomma devi masticare un po' di inglese, perché lì sono tutti stranieri all'interno. No, non ho capito, è come nave, è bella. Io ho fatto il primo viaggio inaugurale della Costa Crociere, ho fatto il Natale su, ho fatto il viaggio inaugurale Costa Smeralda, proprio il primo viaggio l'ho fatto io con mia moglie, il viaggio inaugurale, è stato il Natale. E quindi non da tanto, perché la Costa Smeralda credo che sia una nave molto recente, forse uno o due anni. Adesso ne abbiamo noi una nuova che è stata inaugurata quest'anno, mi sembra, e la prendiamo da Dubai, la prendiamo. Ah, ho capito, sì, è recente, l'abbiamo fatta prima che ci richiudessero forse, capito? Sì, no, mi ricordo che è una nave nuovissima. È una nave nuova, caspita. Infatti molta gente fa anche gli stessi tragitti, pur di cambiare la nave, perché vedere una nuova nave fa sempre piacere, dai. Poi sono enormi, sono grandissime. Poi mi hai fatto una domanda poco fa. Ah, sì, mi sono trovato bene, ho fatto la Grecia, quindi Santorini, guarda, che dici tu, no? Catacolon, e poi altre tappe che non mi vengono in mente, però la zona della Grecia. Sì, Atene, io ho fatto anche Atene. La nave è stupenda, dentro c'è anche il museo della Fiat, c'è la Vespa, il Vespone, insomma un sacco di cose. Io una settimana non sono riuscito a girare, un tanto trovavo un bar diverso, e questo bar, no. Bellissimo. Cosa prendi? Sempre il pacchetto, come si chiama? Brindiamo, quello tutto incluso, cosa prendi? Ma io quando lo faccio sempre l'all inclusive. Conviene, se uno beve un po' conviene, dai. Io non è che bevo, assolutamente. Io sono Jack Daniel, stavo scherzando, è aranciata. Mi chiede aranciata, io non bevo. Però quando sei in compagnia, sai, ti lascia andare un po'. Certo, no, anche noi lo prendiamo sempre. Prima addirittura, con Costa, se lo prende uno deve prendere anche il resto della cabina. Invece con MTC poteva prendere solo un componente della cabina al pacchetto e poi magari alla Cuba, come si dice, offrirvi anche agli altri. Sì, si può fare anche così. Ma noi quando partiamo tutti e due all'inclusive, ma ce ne frega niente. Adesso il 20 giugno dobbiamo partire, ti ripeto. Facciamo conoscere la crociera a questi due miei amici, vediamo un po'. E quindi cosa fate? Palermo, poi la Spagna, toccherete, Marsiglia, così no? Ma non so se anche Malta è bella, anche Malta. Marsiglia, Barcellona, Marsiglia, Malta, Palermo, dura una settimana, da domenica a domenica, vai. Sì, 8 giorni. No, già si sta bene, dai. Poi quando si gira, buona compagnia, ti passa che è una meraviglia. vuoi come scendi, a me piace anche girare, pedalare, mi ricordo siamo a Tarragona, abbiamo girato, che a volte cambiano, Ibiza di notte, lì devo vedere le discoteche, perché lì Ibiza sta anche di notte, parte l'indomani parte, quindi ti permette anche di vedere i locali. Sì. Noi una volta siamo stati fortunati che c'era maltempo e siamo stati due giorni a Barcellona, ci abbiamo girato tutta con i locali di notte, insomma, e Barcellona è bella, c'è una bella vita di notte. Io c'ero, guarda, un mese fa, ero un po' più a nord, ero a Calelia de Mar, però una cinquantina di chilometri, diciamo, una mezz'oretta di macchina, dai, o in treno. Allora, lì avevamo il pullman conto nostro e l'abbiamo girata parecchio Barcellona. Allora, poi sono entrato a vedere anche la Sagrada Famiglia, che mi mancava vedere da dentro, sempre vista fuori, mai dentro. La Sagrada, non ho la Puglia, sempre con le impalcature, non finiranno mai quella cosa. Sì, è che dentro gli ascensori erano bloccati, quindi l'ho vista solo, diciamo, dall'interno, non si poteva salire sulle guglie, dai, deve essere anche quella una cosa bella, ma magari un'occasione per andarci un'altra volta. Franco, ma dimmi, dai. Ma quel Redmi Note di tua moglie, bene, funziona, perché a me, io l'ho dovuto mandare in assistenza. C'era bloccato una volta, aveva perso tutte le foto di un matrimonio, porca miseria, l'unica che era entrata poi, per la scusa del Covid, poteva entrare solo una persona, da quella volta in poi sta andando bene, gliel'hanno resettato, non so cosa l'abbiano fatto, avevano cambiato il processore, perché si è bruciato tutto proprio. Ah boh, allora sono tutti difettosi, chissà a me quando me lo tornano il mio. L'ho portato da un bel po' adesso, è in assistenza, capito? Guarda il telefono, Fra. Il mio? Allora, il mio. Mi caccio il telefono tuo io. No, pensavo che volevi vedere, non so, qualche cosa in quello di mia moglie, il telefono di mia moglie. No. Aspetta, vado a prendere, che era in carica. Riprendi, Eugenio. Sono qua. No, ragazzi. Natali. Oh, bello quell'omologato, cos'è? Sì, guardalo bene. Cazzo, cos'è? Un Midland, cos'è? No, il superstar è quello. Io ho tolto il BB, li ho tolto. No, quello che ti sto guardando io, sopra quello. Ehi, quello lì è. La mazza, come si dice? Bello. Cos'è? Nuovo acquisto? Ehi, con quello sto parlando. Oh, esce benissimo. Ma che cosa stai usando? Una V508. Non lo so, la V cosa sta? La Donis, lo conosci? Ah, la Donis, sì, l'ho sentito, vabbè, non lo conosco, un microfono. Lo sentito nominare, capito? Quello lì. Quello di sotto si assomiglia al mio invece, cos'è quello lì? Soltanto che io in mezzo c'ho il frequenzimetro, capito? Lì il frequenzimetro non ce n'è, l'altro ho visto l'avevi, quello col frequenzimetro. Ma quello si vede, dov'è? No, lì non si vede, no. È nella scatola, l'ho messo nella scatola quello, se no dove me li metto? No, qui non si vede. Bello. Una bella bestia, caspita. Beh. È preciso al tuo, Emi. E quale? Avanti oggi. Non c'ho, ci sei su Facebook? Io sì. Ci posso mandare l'amicizia? Non è, diciamo che l'ha preso mia moglie adesso, era il mio. Adesso lo sto usando lì. Però ce l'ho, dai. Allora, se tua moglie non c'è problema. No, lo usiamo in due. Cioè, rimane. Ma io lo uso poco, la verità. L'ho fatto perché abbiamo un ragazzo che ha quasi adottato da Santo Domingo, così a Baia Ibe, un ragazzo che si da rotelle, là. E poi alla fine se l'ha preso mia moglie questo account, che ce l'ho parecchi anni. Allora, se lo usa tua moglie non c'è problema. Io vabbè uso WhatsApp. Non so se Natalino ce l'ha il tuo numero. WhatsApp usa il numero di telefono però. Dico, Natalino ce l'ha il tuo numero? Natalino non c'è, no. Claudio ce l'ha. Claudio te lo può dare il mio numero, allora se capita facciamo come ti dici? Uno scambio di numeri. No, Natalì, mi hai mandato tu, con un altro numero me l'hai mandato questa foto. Ho il solito numero, Perché non mi è uscito il nome, scusa? Allora l'ho perso, lo rimemorizzo, dai, riprendi. Rimemorizzalo, perché è quello il numero mio. Adesso vedo. Ecco qua, Natalino Alfa 1 ho messo. Ok. Perché ne è un altro, Natalino, ma è di Zunzu, Su 5. Vediamo se... Provo a cercare Natalino, se mi dà un altro numero. O se mi dai solo i due numeri, dai. No, perfetto, ne ho solo... Ho solo quello, Natalino. Perfetto. Lupo grigio, lupo grigio c'è anche vicino. Sei vicino a Nicola lupo grigio? Scusa, stavo parlando con la 50. Sei vicino a lupo grigio, gli ho detto come contatto, come si chiama? Nicola. Non è K. Anda bene, Veda. Questo è quello omologato, ma che dice che gli arrivo più forte? Ed è uno oggi toccato nuca. Sono al zero con il vatto. Chissà quanto dà a zero. E quanto dà? 4 watt. Aggiungi uno zero a fianco magari. Ah. No. L'hai preso qua a Sassari? Meno male, dai. Va bene, complimenti, dai. Io mi piacerebbe un 140, dai. Non serve. E poi ho chiuso un baracchino a sintonia continua. Capito? Non è a livello di questo, di quello lì, di quell'omologato che ti stavo parlando. E costa anche di meno? E a costare costano, però è un'altra vita. A parte che hanno un altro tipo di caccia bene. Hanno un altro tipo di ricezione, perché è duro questo cavolo di tasto e mi scappa. Adesso ho messo quello il lock e per disinserirlo tocca usare il tasto normale. Anche qui invece questo qua è troppo sensibile mio, come lo tocco parte la portante contrario. Avanti Eugenio. Sono qua. Sto pensando come mandarti il mio numero di telefono. Con calma già riusciremo, dai. Ti mando il piccione viaggiatore. Vai, piano ce la faremo. Senta Claudio, vai, Claudio ce l'ha, il mio numero te lo può dare. Chihuahua, i compagni. Chihuahua non c'è. Eugenio era a Sassari stamattina, non ci siamo incontrati, se no ce l'avrei avuto il numero di Eugenio e gli avrei passato il numero tuo. Non ci siamo incontrati perché io sono dovuto uscire, magari mi ha chiamato e non c'ero io qua, capito? Capita, a volte coincide, a volte no. Io ho incontrato qualcosa a Franco di Sorso ieri. Ma poi da Roberto ci è andato Natali? No, non ci sono andato, stavo aspettando la chiamata tua quando sono rientrato e purtroppo tu deve essere, te ne eri già andato. Se no sarei andato. Ho capito. Vabbè, potevi venire Boberuglio, no? No, che sono dovuto andare a fare una commissione, non c'ero io qua, magari chiamatomi hai tu. Io dopo ti ho chiamato, però non mi hai risposto. Perché non c'ero, è quello il discorso. Sono andato a fare una commissione urgente e quindi non ci siamo trovati, capito? Non ho capito. Ma tu il mio numero ce l'hai? No, non ce l'hai. Giulio ce l'ha il mio numero. Giulio, è vero. Giulio c'è anche il mio. Hai copiato? Sì, ho capito, Giulio anche il tuo. Sì, quindi se capita anche lui te lo può dare. Ok. È che a volte, magari se ci siamo tutti e tre, che a volte no, in genere per l'occasione non lo danno se non lo sentono prima a me, capito? Giustamente. Anch'io faccio così. La privacy prima di tutto. sì, ho portato il numero di cellulare, infatti io questo qua è il numero di cellulare di lavoro, non è un problema per me. Oh, questo mio è personale, dai, l'aziendale, a volte lo prendo quando, ma ormai uso sempre il mio perché, ma ormai le telefonate sono, non dico che sono gratis, ma quasi. Sì, no, ma questo è il mio cellulare, è il numero privato, però oramai è di lavoro, capito? Lo uso al lavoro e basta, lo uso molto più al lavoro che come telefono personale. Eh certo, ma quindi ce l'hai da poco, Natali? Eh sì. Regalo di Babbo Natale, dai, che hai fatto? Sì, vabbè, lo stavo cercando da tanto. Capito, io stavo cercando uno di quelli che volevi tu, perché ero abituato con quello più grandetto di quello che piace a te. Infatti a me non piace quello lì. Beh, esteticamente è molto simile. L'importante è che non diano problemi, capito? Perché dicono che il 140 non dà problemi, è più stabile del 440 o cose varie. Sì, vabbè, a me non va, io ne ho avuto due e non mi hanno dato mai problemi, capito, mai. Perché il diavolo continua a seguirmi dappertutto. Era tutta un'altra cosa. Quello là che piace a te, non conviene manco a compararlo, perché è poco più di un baracchino. Cosa c'è in più questo? Perché comunque esce bene anche in M, dicono che questi apparecchi non escono bene, ma questo esce anche bene. Perché questi apparecchi quando te lo vendono non hanno le schede AM e FM, te le devi mettere a parte, capito? Questo c'aveva tutto. Oddio, poi i filtri, queste cose qua. Tutto va, poi c'ha una ricezione paurosa. Confronto a quello che piace a te, non lo puoi mettere a confronto, dai. Molto pulito, silenzioso, dai. È tutta un'altra cosa, e là. Io due anni a poco di Goiti, 240. Addirittura Goiti. Te lo sto dicendo che sono più di un baracchino. Io nel 440 c'avevo tutti i figli, tutto quanto, lo usavo, però non era mai a confronto con questi. Ehi, dai, sarà bravo. Sarà bravo, dai. Confronti tu li hai fatti tra uno e l'altro, io sì. Tra quello lì al 140. Colpi a mezzo del 140. Diciamo che è inferiore, ma non è che sia così tanto inferiore, però quello è superiore sicuramente, ma non ha niente a che fare come modulazione, come dice trasmettitore, con il 140, infatti è da uno che l'ha già provato, e io li ho provati tutti e due, sia il 25 che il 26, anche quello con i 50 mega, provati usati. Bene, tanti anni, e l'avevo venduto a Giovanni Mistero, e Giovanni Mistero poi ce l'ha venduto perché non sta più facendo attività. Quello lì era pari di un 430, molto meccanico, molto silenzioso, con tutti i filtri, come il 430 che ce li ha tutti opzionali, capito? Il 430 è l'unica radio che c'ha tutti i filtri opzionali, tutti, il mio ce li ha tutti. Quel 440 nasce con i filtri completi, tranne quello mi pare dell'SSB, però sono altri tipi di radio, quello superiore al 140, ma non che paragoniamo il 140 a quello a livello di un baracchino, 140 è una bella radio, è molto meccanica, funziona bene, è chiaro che è molto più rumorosa, però già va bene. Ok, avanti tra. Ehi, una cortesia, potresti mandare il mio numero a Eugenio qua? Il tuo numero di telefono? Me lo devo scrivere, poi qua non prende, adesso oppure non esco. Domani se mi ricordo glielo mando. Ehi capa, ti autorizzo, quando capita, ti ringrazio. Ehi, va bene, va bene. Avanti, Tattalino. Capa. Cosa intendete voi? Questo qua, questa è la legge per 140, cosa intendete voi come rumorosità? cosa intendiamo come rumorosità? Intendiamo che è più rumoroso rispetto alla radio che sta parlando Mazzalino, su quello non ci sono dubbi, però da paragonarlo a un baracchino mi sembra un po' troppo eccessivo. È una bella radio, funziona bene, ma con quello che sta usando Natalino non ha niente a che fare, è molto più silenzioso, molto più non te lo posso dire, ma comunque è superiore, ok. 140 io l'ho sempre definito un baracchino a sintonia continua, ma per le modalità che ha, perché è molto semplice, però è un bel ricetrasmettitore, io ce l'ho, funziona bene, certo non è da, se io accendo il 140, accendo il 430, il 140 lo spengo perché il 430 è molto più selettivo, ecco. La prova esatta è quella, molto più selettivo, quello di Natalino, è un 430 diciamo, è molto selettivo, molto silenzioso, capito? Con tutti i filtri, se non hai filtri è una garretta come il 140, tutto qua caro Eugenio, capito mi hai? Ehi, ehi, va bene, d'accordo, siamo in conto a posto, adesso ti mando un mio, eh. Ah, te l'hanno mandato? Ehi, ehi, sta a posto. Ehi, capa, scrivimi il nome, così so chi sei. Scrivi Chihuahua. Aspetta, dai, riprendete. Io Eugenio, c'è scritto Eugenio in uno, e poi su WhatsApp c'è Chihuahua. E c'è anche la musichetta, pa, va, pa, pa, ra. Uno è il mio numero di telefono, guarda, 30 anni a questa parte è già più di su. Chi è, chi è? Chi vuole entrare? No, anche il mio, è lo stesso numero da quando ho iniziato, quello mi è arrivato. Fra, il nominativo, al CP. Aspetta che sto ascoltando il messaggio. Natali. No, ragazzi, a più tardi. Ciao, se ci siete io devo chiudere adesso, ci sentiamo più tardi. Ciao. Sì, io ci sono, stavo leggendo tutti i messaggi dei vari incroci dei numeri di telefono. Ok, allora, hai ricevuto anche il mio? Sì, io ci ho mandato il mio, l'hai letto? Beh, cioè, no, se te l'ho mandato, vuol dire che ce l'avevo già, no? Me l'ha mandato una persona, dai. Ah, ok, ok, sì, perfetto. Ah, già. Eccomi, fratto la sassa, è perfetto. Adesso l'ho già salvato e poi ti ho mandato il messaggio, quindi ce l'avevo già. Dobbiamo ringraziare una persona che sicuramente sai chi è, dai. Sì, ok, perfetto. Grazie a quella persona. Ci sentiamo ragazzi, dai, da domani o più tardi se ci siete. Ciao. E ya dai, ci aggiorniamo, ciao, grazie ancora. Natali. Oh. Ho visto anche il microfono, bellino, eh. Ecco. Ma ti stai facendo una bella attenzione, dai. Ecco. Ci siamo? Ci siamo, ci siamo. Ecco. Scusate, non c'avevo gente. Ehi, ecco, ben rientrato fra. A volte arrivano e non li puoi dire di no. Ma ci mancherebbe altro, capita a me, capita a te, a chiunque può capitare. A volte anch'io mollo, secondo voi, una telefonata, un campanello che suona, una persona viene trovata e non puoi stare a baracchino. Ci fa uno e l'altro, dai. Te lo credo che è così. Beh, però adesso me la vado a mangiare. Ci sono tutte lisse. Vabbè, allora, buona cena con tutto. Io sono ancora a decio da pranzo. Ma ho finito che erano le 4 o 4 e mezza. Capo, e allora cosa tu puoi rimanere? Io sono un amico giorno e mezzo che sto mangiando. Mi sa che faccio quello sport che fa dimagrire, come si chiama? Il salto del pasto faccio. E allora già dimagrisci, sì. Ciao Fra! Ci sentiamo. Ciao Fra! Non proseguo con tutto. E ciao Natalino, ci sentiamo. Eugenio, se ne è andato. Va bene. Ciao, buonasera Franco. Gaffa, ciao, buonasera Franco, buona carica, buon tutto, alle prossime. Così è Natalino, quello è l'unico sport che fa dimagrire. Se no quello che ho fatto io. Chi si ha fatto dimagrire a vero, via? Mamma mia, cosa ho fatto. No, tu fai quello che dico io che è meglio di quello che è del tuo. Guarda che sono arrivato a punto brutto, a 52 kg sono arrivato con quello che ho visto. E mai mi sono visto così. Purtroppo, capitano, anche io qualche volta ho passato qualche tipo le coliche renali che inizia a vomitare a tutto andare. A maniera ti dimagrisci. Ci sono quei gente che mi riparavano i pantaloni, mi ho dovuto comprare i pantaloni, adesso sono arrivato a 64 fortunatamente, però quando mi è successo quello che mi è successo, fino a 52 kg sono arrivato. Peso più, ma è, caspita, pochino, dai. Ti sto dicendo che mi hanno intubato, ti dico solo quello. Mamma mia, brutta esperienza, dai. Ho avuto 3 ricoveri e 2 interventi. Non so se rendo l'idea, tutto visto che è giù basso al Dio. Ehi, vabbè. L'importante è che siamo ancora qua a raccontarle. Infatti, sono vivo per miracolo. Infatti, mi sono fatto operare proprio per quello. Perché mia zia mi ha detto, non ti indrumi, fatti operare, o sai che ti ne venga un altro attacco e vi rimani. Bisogna stare attenti. Bisogna recuperare le forze fisiche. E infatti mi sto rimettendo adesso. Sono arrivato già a 64 kg. Poi ho avuto anche la fortuna che praticamente a me più di tanto non mi sale la glicemia. Mi hanno tolto tutte le insuline. Mi hanno lasciato solo quella della notte. Se no era una prigione. Una prigione. Mamma mia. Io ho avuto un collega, lo stesso, è stato un paio di mesi male così, ci ha beccato il Covid ed era intubato, ma ci sentivamo solo tramite cellulare, non sentivamo quei messaggi con WhatsApp e basta. Figurati, io non ho preso il Covid, ma ho visto la morte in faccia. E ti credo, anche lui ha perso un sacco di chili, che è una persona abbastanza robusta. L'ha dimezzato, c'era una specie di chip in testa, di nylon, con l'ossigeno, capito? Mamma mia. Comunque anche lui piano piano ne è uscito. E infatti, meglio così. Infatti, guarda, io mi sono spaventato veramente la volta. E ci credo. Ma ripeto, adesso guardiamo avanti. 64 kg, pesi già quanto a me. Ehi, ma ne pesavo quasi 80. No, ma penso che sei meglio adesso. Con 64 penso che sia un bel peso a forma. Sì, me l'ha detto la dottoressa, mi ha detto lui arrivi a 62 poi si blocca. Mi ha detto che già va bene quel peso lì per lì. Ero sovrappeso prima. Infatti, ma per tutto, articolazioni, cose così, sono tutte sollecitate dal peso. Quindi meglio stare un po' a regime. Io quando posso saltare non salto, tanto già ho lavorato bene a pranzo. Sì, infatti. Ma io già, poi a parte che non ce la facevo a mangiare, più di quel tanto non riuscivo a mangiare. Cavolo. Da quello che mangiavo prima a quello che mi mangio adesso, un abisso c'è. Sicuramente ti si è ristretto un po' lo stomaco. Alla fine, a furia di non mangiare, il serbatoio diventa piccolo. E poi adesso devo stare anche a regime per non salirmi la glicemia, quindi più di chi tanto non devo mangiare e devo mangiare certe cose non le mangio, capito? Mi tengo a regime, infatti la dottoressa è tranquilla veramente, mi ha tolto le insuline e mi ha dato una pastiglia, quella pastiglia è una bomba, la prima mi aveva fatto male e allora avevo ripreso le insuline, però questa già sta funzionando. Devi eliminare pane, pasta, questa roba così, che contengono molti zuccheri. Sì, il pane già lo mangio, metà panino, mi mangio e ne tolgo la mollica, quella l'ho sempre tolta perché mi fa schifo e quindi non è che neanche un panino mi mangio, mezzo panino e senza mollica pure. Dovresti mangiare integrale, così, pasta integrale, pane integrale? Dovrei. Io ogni tanto ci provo, che mio figlio mi vuole convincere, lui è anche di quelli che ci tiene un po' a mangiare a livello salutare, dai. Però non lo so, preferisco sempre la pasta normale. E anche io mangio quella normale, no? Che mi stai pure da casa, ma basta, invece mangiatemi un piatto e do ampruso di ne mangi la midai sul piatto che ti mangiavi prima. E poi la sto mangiando solo a pranzo, a cena difficilmente mangio pasta, è proprio raro, Non è che non siamo degli amici, magari che poi ci organizziamo qualche spaghettata, se no la mangio solo a pranzo. E quindi va bene. Sì, sì, deve essere un po' bilanciata, no? Proteine la sera e carboidrati a pranzo. Anda bene Mela. E Claudio che fine ha fatto? È andato se? Non lo so, è entrato, poi ha salutato, ha dato qualche consiglio. E ti voglio chiedere un'altra cosa. Come frequenza cosa copre? 0,30 o anche 50 c'hai? 0,30. Va bene, no, ce n'è. E poi a livello di antenne cosa c'hai? Solo. C'è anche l'antenna per UV? Sì, ce l'ho fuori dalla finestra, adesso la metterò sopra. Quando la smonto questa qui, piazzo l'antenna nuova, metterò quella della macchina, Emmy, una 5 ottavi, già la conosce Claudio, riceve benissimo anche da qui, ma io la metto più in su adesso, così posso ascoltare di tutto. Certo. Proprio cosa ci vuole, magari qualche dipolo ci vorrebbe, ma dove lo metti lì? Lo metto quello per i 40, tanto lo devo mettere più in alto, adesso me lo faccio il dipolo. Quanto è lungo quello per i 40? Io adesso non me lo ricordo, devo fare dei calcoli, mi sapevo fare bene in quei dipoli, ne ho fatto qualcuno a qualche amico mio e sono tutti andati di lusso. Ne ho anche uno multibanda in campagna, ma chi sei troppo umano. E poi per l'imperienza cosa devi fare? Qualche adattatore, qualche ciocco, cosa facevi? Il ciocco facevo. Per quello della il multibanda gli ho fatto quello lì. Quella scaletta, Emmy, c'è anche gli 80 metri, da tutte le parti andavo a quello mio. E l'ha messo in orizzontale o a V? In orizzontale l'ho messo e poi scende la scaletta, è alimentato alla fine della scaletta. Non mi dispiace io adesso. Non ho mai fatto quei multibanda, quei dipoli così. Qualcuno normale l'ho provato e basta. Prima di mettere qui l'antenna davanti alla finestra, ho messo un dipolo, ho fatto così, una bella meglio. E ne avevo fatto uno per la banda di su e ce l'ho in campagna, dovrei averlo in campagna, è piazzato ancora dove si fanno gli ex, che era bellissimo. E poi avevo fatto quello per la banda per i 45 metri, per la banda pirata, quella era una bomba davvero, era V invertita e avevo piazzato lì alle punti, caspita, oh, ma funzionava, una meraviglia. Ne avevo fatto le misure, un tipo di Alghero, un radioamatore piazzato, avevo agganciato praticamente al palo dell'Enel con una canna lunga, l'avevo fatto una specie di aggancio col fil di ferro, un aggancio al tubo e poi appesi i radiali le due calate più o meno con quei gradi. Ma i segnaloni a 9,30, 9,40, 9,60, segnaloni a tutta l'Italia. Lo so, lì hanno fatto un bel repulisti. Hanno fatto piazza pulita lì. Te credo. Sbadigliando. Adesso non c'è più nessuno con la frequenza, è pulita? O la stanno utilizzando per qualche altra cosa? No, quella lì non la puoi usare la frequenza perché appartiene a un ente, capito? Non si può usare. Io infatti ti parlo degli anni 80, 90 erano, Purtroppo hanno fatto un bel repulisti lì e non si può più trattare. Sembrava strano però, con due pezzi di filo sentire tutta Italia, è così, tanto antenna sua era quella, io ce l'avevo sotto alla mantova, ce l'avevo. Erano lunghe, le calate erano lunghe, non mi ricordo quanti metri, poi 5-6 metri, adesso non vorrei sbagliare, però erano grandi, diciamo, le braccia del dipolo, poi isolati, con gli isolatori. Avevo usato il cavo da 4, se non sbaglio, del filo elettrico da 4. No, io da 2,5 mi sembra l'avevo usato. Come gli ascoltavo? Rimaneva bello, bello teso. Sì. Avevo poi un trasverter che non trovo più, non so neanche che fine abbia fatto quel trasverter. Sì, figurati, io non ne avevo trasverter. E come ci andavi? Avevi già armi da combattimento? Ehi, io sono un combattente. Un rivoluzionario, sì. Coltello fra i denti sempre. Bello. Non mi ricordo, forse me l'aveva dato, forse Walter me l'aveva dato quel trasverter. Aveva un rotore anche per la direttiva. Oh, non trovo più niente, chissà che fine ha fatto in campagna lì da. Non in campagna, lì punti. Chissà quanta roba c'ho io in campagna e no. Non la cerco più. C'è la multibanda che è sopra un palo da 10 metri, poi da un albero all'altro. No, io proprio non l'ho mai usato, era ancora in scatola. Una scatola di cartone. Mai utilizzato, perché le direttive le avevo utilizzate fisse, usate poche volte, poi tutte abbandonate. Ed è rimasto il rotore lì, mai più trovato. Io ancora in campagna dovrei avere una 12 elementi per VHF, era enorme. No, questo era un 4 elementi, se non sbaglio, per la 27 era, Io ho capito, la Iaggi avevi. Non mi ricordo. Comunque la classica direttiva, aveva un paio di riflettori, un trasmettitore. Io ho capito. No, io direttive non ne ho mai usato. E una prova abbiamo fatto una volta, io stavo lavorando lì al Brachena, e ho provato se riuscivo a arrivare a Sassari con due direttive puntate una con l'altra, dai. Ho capito. È che avevo un sacco di QRM perché avevo i cavi dell'alta tensione, proprio quasi sopra. Facevo difficoltà a ascoltare più che altro. Perché ci fanno rumore, già lo credo. Cata, io ho la mantova 5, nuova. C'aveva 2 mesi quando me ne sono andato da campagna, sopra un palo da 12 metri. E non eri più smontata. No, è lì che si starà marcendo, ve ne so. Da quando sono andato via non mi sono più interessato di nulla. Non lo sa come si dice. E poi, a parte che mi ero disgustato perché l'avevano bocciato alla patente di radioamatore, e allora ho lasciato perdere tutto. Mi ha disgustato veramente, guarda. Adesso ci stai ripensando adesso. Un pensierino ce lo sto facendo, adesso mi devo ricomprare i libri, la fanguala, perché mi ho dimenticato tutto. Sei buona memoria, io non ho memoria. Mi ho dimenticato tutto, sono parecchi anni questa cosa. Sapevo fare tutti i calcoli, tutto quanto, con la calcolatrice scientifica. Cavolo. Adesso le normative saranno anche cambiate, quindi bisogna studiare attorno alle normative perché sono aggiornate sicuramente. E quindi mi devo comprare anche quello, il libro. Così almeno do una ripassata a tutto, da. E poi oggi lo stanno andando addirittura online, così è. Infatti ti fanno 5 domande, se ne indovini 3. Magari qualcuno ti può anche dare una mano. Sì, qualcuno, e chi te la dà una mano, via. Qualcuno di quelli che ha già studiato. La mano grande già me l'aveva data un amico mio che era radioamatore, che purtroppo è deceduto, poverino. Se saliva a campagna a farsi di ex in casa, casa mia, saliva, perché c'avevo zelantenne e lui non ne aveva. C'era solo una bibanda e buco, mi sembra. Ma quando gli ho fatto il dipolo multibanda, anche a lui non c'è più salito. Ma a Porco si faceva in campagna. Io stavo al computer e lui alla radio. Vedi che c'era una zona buona? E te credo. Tu pensa, in 80 metri ha fatto la lista, li chiamava per nominativo perché tutti volevano parlare con la Sardegna, volevano parlare, capito? Perché era più difficile da collegare, più rara magari. Più rara è, allora li chiamava per nominativo a tutti, ha fatto la lista, si è fatto bene fare la lista. E come apparecchio invece cosa usava, i suoi? Il mio usava, allora. Lui manco ne portava a Parigi, e c'era tutto lì. Quindi usava tutto, dai, antenna e stazione. Cosa avevi allora? Massa di cuocomani. Mimì, vedi bella me. Quel drogato di Luca Puglioni, tanto lo telefono alla una, non alle due, alla una lo telefono, non lo faccio dormire. Oh, Fra, ho visto la Danilo sotto il ponte con lo spinello conficcato nel braccio. Lo spinello, acceso. Allora, si stanno facendo il vaccino. Io non è quello il vaccino mio, Natalì. Ma ti immagini questo drogato, cosa mi dice? Ma ti immagini, alla una lo telefono, io non ti posso dormire. Vabbè, Luca. Ma vuoi finire? Finire 23 40 81. Hai finito? Così era il numero. Ma ti faccio schietta, eh? Vengo lì, attacco la coordinata e la tiro con la macchina, drogato. Drogato sarai tu, adesso lo dico a Concetto e ti faccio picchiare. Hai capito, bello bene? Ho dovuto squillare il telefono. Adesso. Questa storia che è drogato mio marito. L'ho visto io sto ponte con la singa ficcata nel braccio con c'è. Mi goi pisemi, Luca. Adesso ti faccio schiattare, l'ho detto a mia moglie. Schiattare che cosa bella? Tutto gonfio sono. Ma ieri il tuo marino ha smeltato, no? No, io dormo solo. Ma so, io non ci sono con te. Io sono a casa, la mamma adesso, dormo solo. Ma è finito. Allora so. Scaccia bene. Io dormo con voi solo. Andiamo, andiamo. A te l'immagine, entra all'improvviso e mi dice tutte queste cose, Fra, questo Luca. E poi io non ho ragione di telefonare alle due di notte. E allora, chi è avanti? Ogni tanto entra, bussa, entra, oddio, vorrebbe entrare magari. Ma cosa vuoi che ti dica, Fra? Una scienza, questo Luca adesso fa toccata e fuga e non entra più. Prima me ne dice tutti i colori. E ne approfitta perché sei bravo. Infatti, ma quando lo trovo anche il pizzetto li faccio volare via. Già andato via, Emi. Vuoi finire? Vuoi finire? Adesso avete rotto. Bip, bip, bip. Cuo, male. Mangia il brodino di mammo? Il brodino di mammo te lo mangi tu, hai capito? Cuo, male. Hai finito? Altri tempi? Chiaro grido, ogni incazzatura dura che si pigliava, poverino. Una volta, lo sai cosa è successo? Io lo difendevo e tutto, e stavo parlando con Adriano, quell'amico mio che abitava lì, qui vicino abitava. Stavo parlando, a un certo punto ne entra lui secco secco. Maria, non ci parlare con quello che è froscio. Edu. E lui, allora, secco secco ne è entrato. Adriano è caduto dalla sedia ridendo. Oh, yeah. Adriano, sto pensando, questo nome mi ricorda qualcosa, ma non riesco a metterlo a fuoco. Adriano Lando si faceva chiamare al baracchino. Io vabbè, intanto qualche pausa l'ho fatta. Ma te immagini a Falcone. Guarda, io lo difendevo e tutto quanto, e lui mi ha detto che gli ha detto Adriano che lo usi. Boh, peloso sei. Sì, facciamo il gioco della calzetta. Ehi, fregati il microfono nelle gambe. E lui era già con la baba in bocca. Luca, non parla, non è lui, non ti va. No, no, ormai è entrato a gamba tesa. Lei ci vada bene un po' d'acqua, dai. E vabbè dai, me la sto chiudendo anch'io, tanto non ho entrato nessuno in casera, arrivata a Fuccia. Ehi vabbè, molta gente all'ascolto e pochi che vogliono entrare, dai. Stammi bene, bocca al lupo per tutto e ci risentiamo alle prossime. Buonanotte e buon tutto, saluto la signora. Ok, saluto anche a Luca se è ancora all'ascolto e gli eventuali ascoltori. Avanti Natalia. E ok Fra, buon proseguimento, saluti in casa, alle prossime, dai. Ciao Luca se sei in ascolto, cuocuomane. Oh, mi ha fuggito, eh. Ce l'ho detto Fra, entrate fuori, magari sta ridendo, mi sotto i baffi. Lui è il cagnolino, lui. Che bella che è questa cagnolina che c'ha. Vabbè, dai, ci sentiamo, alle prossime, Fra. Ciao, ciao, buonanotte. Andiamo bene, andiamo. Sì, Lumi, buonanotte, lì. Chiudete lo stato, buonanotte, buonanotte. Lei ti ha salutato anche Natalino. Ciao, buonanotte a 3-2, allora, ciao, a domani, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao.